later, then you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli tutto scorre nella più pigra indifferenza, Cappa e Drago assistono alla parata della festa della Repubblica. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Ma cos'è sta roba? Polli militari che sfilano. Drago, suona anche tu, non farti domande, mettiti insieme al corteo. Il 2 giugno è la festa della Repubblica. Adesso non è giugno, Cappa. Ah no, cos'è? Non lo so, come facciamo a saperlo? A me sembra agosto. Beh, a occhio e croce è una parata militare, sempre a occhio e croce sembrerebbe quella del 2 giugno. Ma il 2 giugno era festa, scusa. No, è festa. C'è fieste. Tarek, stai giù, no? Non far spuntare la testolina dalla trincea. E qui ogni tanto succedono cose strane, però, eh? Io mi sto un po' stufando di stare qui. E tu? Ma che domande faccio? Tu non capisci nemmeno metà di quello che ti sta intorno. Sempre con la mente a brie, specche e prezzi d'olive? Però guarda che fuori di qui, nei cortili delle fattorie, o anche solo in giro per i sentieri, c'è tutto un mondo, Non un mondo buio e terribile come questo qui, Fuori c'è il sole, ci sono i prati, i lombrichi che si nascondono sottoterra, che bisogna andarli a stanare, ma che poi alla fine sono più buoni, sono deliziosi, e poi c'è il mais, che è tutto quello che puoi trovare in natura. Giù Tarek, giù, no? Allora, è chiaro Tarek, che fuori di qui bisogna darsi un po' più da fare però, perché se trovi un padrone che ti nutre e ti fa star bene, tu non ti devi illudere, perché lui ha solo in testa di tirarti il collo e mangiarti una domenica qualsiasi, quindi tu non ti devi affezionare. La cosa migliore è fare il polo selvatico che gira di casa in casa per rimediare un pasto. Ed è quello che faremo io e te, Tarek, Va bene? Stai giù, ho detto, no? E svegliati un po', però, Guarda che tuo zio, prima di finire sulla ghigliottina, mi aveva detto che era impacciuta, Ma io non pensavo che lo fosse così tanto, però, Però ormai hai dato la mia parola e quindi stai tranquillo. Ti porterò con me fuori di qui, costi quel che costi. La fabbrica di polli. La palla rotola per le discese, la pelle invecchia nelle lunghe attese, il PIL non cresce più nel tuo paese, e il pollo ingrassa ma non ha pretese. Ci son parole che cambiano vocale, ma il senso del disastro, il senso del disastro resta uguale. Suono e telecanto. Sono Gaetano. In cosa posso esserle utile? Vabbè, ma l'altra volta mi davi del tu, adesso mi dai del lei. Ma sei di nuovo tu, Cappa. Ma la sei lavori da solo. La prego di non indugiare in discorsi inutili e di richiedere la sua canzone. Sì, però vorrei evitare la trafila della legge sulla privacy o privacy. Privacy. O privacy. Ecco. Lei ha già chiamato questo servizio? Ma sì, dai, Cappa, ho già chiamato, non ti ricordo. Come si chiama? Ma chi? Lei. Ma quale lei? Lui. Lei come si chiama? Io mi chiamo Drago. E lei? Io, lei non Bene, c'è. Bene, allora sì, lei è già nel nostro aggiornatissimo database. Che canzone vuole che le canti? Vorrei una cosa di Béla Bartók qualsiasi. Dunque, Béla, Béla, Béla. No, sotto Béla abbiamo solo due canzoni. Béla Lugosi's Dead dei Bauhaus e Béla Béla Bel Capretto dell'Istituto Barlumen. Allora cantami Béla Béla Bel Capretto. Subito. Prendo la chitarra. Béla Béla Bel Capretto. Vela finché ce la fai. Fai vibrare il tuo musetto, capretto. Per me mi cederai. Bella, bella, bel capretto. Bella senza smetter mai. C'è un coltello già affilato che ti toglierà dai guai. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, capretto, sì, sì, sì, sì, sì, sì, capretto, sì, vieni qui, capretto, sì, vieni qui, capretto, capretto, sì. Vieni qui, capretto, sì, vieni qui, che ti capretto, vieni qui, vieni qui, qui. Radio Rekomenastan se da soče da kosta tipa da umrezmo si orki e capretto. Perché è incompatibile con la convenzione morale e editoriale di Radio Rekomenastan. Arklamadun, Madhoni, piace Madhoni? Grupo grande come Nirvana, ma meno famoso perché nessuno di loro si è sparato un bocca col fucile. A su radio, Orkmanistan, Kirkbain, che si spara in boc. Occidentale ramoletta da retalena paroxetina. C'è volta Orkmano esente da depressione e di malattia mentale. No paroxetina, no retalin, kebab. A tutti, sempre kebab, sempre comunque kebab. Questa è una repubblica fondata su Kabab! I-O-L-L-I possono organizzare la Lega istantaneamente, possono oscurare la legge immediatamente, possono occupare le linee interne, possono ordire le larghe intese, possono ostentare la loro idiozia, possono ostentare la loro idiozia, possono ordinare la loro indipendenza, possono ordinare la loro indipendenza. Piangerete 8.000 litri lacrime. La fabbrica di polli. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ale. Credo che sia l'unica repubblica del mondo a essere fondata sul lavoro. Vabbè, drago, ognuno ha le sue fondamenta. L'Italia è il lavoro, l'Rkmenistan è il kebab. Sì, vabbè, dai, paese che vai, usanza che trovi. Certo. Quello che mi puzza un po', oltre al solito chicken factory, ma oggi è fortissimo, a Roma, è che il lavoro, se fonda la nostra repubblica, allora è il primo diritto inalienabile di cui dovrebbe godere un cittadino italiano. Sì, a occhio e... croce, sì. Appunto. E quindi il lavoro dovrebbe essere tipo un materiale esistente in natura, disponibile a tutti, come l'acqua corrente. E invece il lavoro cos'è? Una menata. E infatti, ma è anche... cioè, negli anni è diventato a tutti gli effetti una merce. Si parla sempre di mercato del lavoro, no? E dunque il lavoro è una merce. Una merce come tutte le altre. Una merce. E dunque l'Italia è una repubblica fondata su una merce. L'importante è che non sia fondata sul polo arrosto, perché sennò c'è davvero da andare in sbattimento, Che cosa succederà adesso? L'Italia è una repubblica fondata sulla merce? E se sì, che cosa ci possiamo fare oramai? Niente. Quindi rassegnatevi a far trascorrere un altro weekend prima di risintonizzarvi lunedì a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi costituzionali allestimenti de... La fabbrica di polli. Anche sul podcast di Radio Rai. La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Luca Gemma, Paolo Giancrasso, Luca Monarca, Alberto Onofrietti. La fabbrica di polli @rai.it, barlumen.com. La fabbrica di polli produce, non chiude. Good night, ladies and gentlemen, good night. Barlumen.